la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon 2 maggio, un altro ponte, l'ultimo ponte per così dire, però noi siamo qua in diretta su Radio 24 di Milano, 16:36 primi e 37 secondi, siamo in ritardo quasi più degli altri giorni oggi. Vado subito alla questione che affronteremo per consentirvi di decidere se chiamarci all'800 24 00 24 o mi mandare i vostri messaggi al 349 238 6666. Il tema è la riforma della pubblica amministrazione, quella annunciata da Renzi nel tardo pomeriggio dell'ultimo giorno di aprile, di cui trovate in realtà solo 44 titoli di una riga l'uno, perché non ci sono i testi. Non ci sono i testi e quindi per me è molto difficile, ve lo dico da subito, giudicare, perché molti di questi punti che sembrano buoni, alcuni anche ottimi, tali altri a me sembrano del tutto impossibili, però enunciati solo nella forma di un titolo, di poche parole, rappresentano un problema, e sempre di più sta succedendo così con questo governo. Va bene gli annunci, però poi servono i testi per capire davvero di che cosa si parla. Invece di questi 44 titoli si farà un disegno di legge, forse anche un decreto legge, ma con una consultazione che è già cominciata, e quindi io vi chiedo di chiamarci per dirci cosa avete capito, come la pensate, se alcuni di voi hanno già scritto a questo indirizzo che il governo ha partorito, che è un indirizzo per così dire coerente all'enfasi del Presidente del Consiglio, perché si chiama rivoluzione@governo.it, e il ministro Madia, il ministro della pubblica amministrazione, ha già detto che sono arrivate solo il primo di maggio ben 3.000 segnalazioni, opinioni di cittadini italiani all'indirizzo rivoluzione@governo.it. Se scrivete però, o se avete già scritto, ditemi in base a che cosa, perché io non riesco molto a capirlo, ma siamo qua per approfondire. Allora io mi limito a parlare solo altri 30 secondi, poi sentiamo altri 30 secondi del Presidente del Consiglio e poi facciamo parlare un ospite che è più titolato di me. Io dico che alcune cose non le capisco, per esempio il Presidente del Consiglio ha escluso che si tratti di esuberi, gli 85.000 di Cottarelli, gli esuberi della pubblica amministrazione, stiamo parlando di più di 3,2 milioni di persone, erano 3,4 prima di applicare il turnover, quindi è in discesa il numero di addetti, però gli 85.000 il Presidente del Consiglio ha negato che ci siano. Detto questo, ben 6 dei 44 titoli riguardano procedure per trattare gli esuberi, perché per esempio, secondo me, la ottima cosa, perché non genera oneri, di abolire il trattenimento in servizio oltre i limiti di pensione, da cui possono uscire fuori, ha detto il Presidente del Consiglio, di 10.000, 14.000 forse posti per giovani neoassunti, e questa roba non costa e va bene. Però poi le altre misure, per esempio la riforma della mobilità volontaria e obbligatoria, la mobilità c'è già per i dipendenti pubblici, solo che la politica non la attua mai. Prima che modificarla, il problema è decidere se la vogliono attuare o se invece il pubblico impiego resta separato e asimmetricamente favorito rispetto ai lavoratori privati. Altra cosa, il demansionamento per chi rifiuta la mobilità c'è nei 44 titoli, è molto a rischio di impugnativa da parte sindacale. La stessa cosa riguarda per esempio la possibilità di un dirigente di essere licenziato, c'è già il licenziamento per i dirigenti pubblici, rarissimamente applicato, ma c'è già. La novità è che in questo caso al licenziamento si arriverebbe dopo che il dirigente resta senza incarico per un certo limite di tempo, anche in questo caso la possibilità di impugnative è molto forte però. Quindi c'è questo piccolo problema degli esuberi, che non è così secondario, che io non capisco, perché se non ci sono, come dice il Presidente del Consiglio, non capisco i 6 titoli che riguardano il trattamento degli esuberi. Poi ci sono moltissime altre cose buone, molto buone, sull'efficienza, i costi, le prefetture non oltre 40, i sindacati sono già insorti, passare da migliaia di centri di spesa, di stazioni appaltante a poche decine, ci vuole l'ira di Dio, ma ottima cosa iniziare, unificare, lo si è detto tante volte, l'ACI, il PRAE, la motorizzazione civile, tante ottime cose, un po' difficili da fare, ma è bene avere l'intenzione di farla. Poi alcune cose senza l'accordo con le regioni non si fanno, questo è il punto, questo bisogna che il governo e tutti quanti noi lo sappiamo. Le municipalizzate è un titolo, ma le municipalizzate senza accordo con gli enti locali non si toccano. L'obbligo di iscrizione delle imprese alle camere di commercio, ci sarà un'esplosione del sistema delle imprese e delle camere di commercio stesso. Io devo dire che sono favorevole da liberalizzatore. Un punto mi piace molto, qui finisco, c'è anche l'obbligo di rendicontazione online pubblica per ogni singola spesa del sindacato. Ieri era il 1° maggio, io continuo a dire che un sindacato che non pubblica i bilanci consolidati si sottrae per primo agli obblighi di trasparenza. Vediamo come risponderà il sindacato a tutto questo. Il sindacato è molto arrabbiato innanzitutto perché non è stato consultato in anticipo. E a questo proposito proprio sentiamo per qualche secondo il Presidente del Consiglio come nel confronto con dipendenti e sindacati ha giustificato questa procedura nuova e muscolare nei confronti del sindacato che chiedeva di essere confrontato prima. Sentiamo Renzi. Noi offriamo all'attenzione di tutti coloro i quali lavorano dentro la pubblica amministrazione le tre linee di indirizzo e determinati interventi concreti che sono già articoli di un disegno di legge delega, ma che sono aperti alla discussione, all'approfondimento, al confronto. Vale per i dipendenti della pubblica amministrazione, ma vale per i soggetti sociali protagonisti, vale per le forze sindacali se vorranno farci avere la loro opinione, vale per il mondo produttivo, vale per tutti quelli che si sentono chiamati alla riflessione sulla pubblica amministrazione. Ecco, queste le parole, come vi dico, sentite la muscolarità del Presidente del Consiglio che dice se i sindacati vorranno, come dire, decidano loro perché io non li chiamo. Detto tutto questo, il Presidente del Consiglio vi ha parlato il 30 aprile, l'avete sentito, di articoli di un disegno di legge. Peccato che noi il disegno di legge delega non ce lo abbiamo, perché nel sito della Presidenza del Consiglio c'è solo la lettera che riceveremo, che tutti i dipendenti pubblici riceveranno, e sono appunto 44 titoli di una riga l'una. Ma sentiamo cosa ne pensa, prima di aspettare la telefonata da parte vostra, un tecnico vero, un ordinario del diritto amministrativo all'Università Luiss, il professor Marcello Claric, che ringrazio di essere qui con noi oggi pomeriggio. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei innanzitutto, sia pure anche lei, immagino, con i limiti di non avere un testo, che impressione ha di questa svolta che il Presidente del Consiglio chiama la madre di tutte le rivoluzioni che vuole compiere? Ecco, anzitutto la prima impressione è coincide con quella sua, cioè che non abbiamo un articolato completo ma solo dei punti scolpiti in modo lapidario in alcuni casi, in tutti i casi, quindi manca la possibilità di commentare in modo specifico. Per la verità alcune proposte sono concretissime, ad esempio la riduzione al 50% del monte delle ore dei permessi sindacali di pubblico impiego, dove ad esempio un confronto e anche un'opinione, credo tutti possano averla, l'abolizione della figura del segretario comunale, quindi si alternano proposte iperspecifiche all'universo mondo, perché ad esempio la riforma delle autorità indipendenti sono da anni che è sul tappeto con tanti progetti elaborati nelle precedenti legislature, la modifica del codice degli appalti pubblici, ogni anno abbiamo avuto qualche volta anche decine di modifiche al codice, quindi è un testo oscillante tra l'estrema concretezza e l'estrema genericità, quindi ovviamente bisognerà attendere la formulazione in articoli per valutare appieno il senso della riforma. Della questione degli esuberi, io sono abbastanza convinto che come il governo ha dovuto recedere dall'idea di riparametrare rispetto alla tua dirigenza, ripeto a tutti, la tua dirigenza è oggi organizzata in fasce diverse, c'è una fascia apicale, poi una prima fascia, una seconda fascia, l'intento di questa riforma, uno dei 44 titoli, è quello di unificare i ruoli della dirigenza, mettendo anche degli impegni temporanei per il contratto di dirigenza, ma unificarla anche con gli enti locali, anche questo senza l'accordo con gli enti locali non si può fare, ma il governo ha dovuto recedere dall'idea di riparametrare le retribuzioni perché secondo me il rischio di impugnative rispetto a accordi contrattuali, ricordo a tutti che noi viviamo con accordi contrattuali stipulati dall'ARAN nel pubblico impiego, impediva al governo di credere davvero di poterlo fare per legge, perché la Corte Costituzionale, TAR e Consiglio di Stato prima avrebbero detto degli scontati no. Tutta la parte degli esuberi e della mobilità, questa parte per esempio della licenziabilità del dirigente se non ha incarichi a tempo, oppure la possibilità di demansionare il lavoratore pubblico se rifiuta la mobilità volontaria, secondo lei non è fortissimamente, professore, sottoposta al rischio di impugnative che poi vengano smentite rispetto all'intenzione del governo? Ecco, diciamo che queste misure estreme che portano all'allontanamento dei dipendenti pubblici e dei dirigenti sono sempre a rischio, anche perché vanno a colpire le persone in modo molto molto forte. Quello che bisogna vedere, a mio avviso, è come verrà collegata mobilità volontaria, obbligatoria, il periodo di, diciamo, di senza incarico e licenziamento oltre il termine. È difficile avere un'idea di come queste cose stanno insieme se non si legge con attenzione il testo della legge di delega, a quanto ho capito che in realtà è quasi pronto su questo punto, perché sono elementi che vanno insieme. Infatti il dipendente, se non accetta la mobilità, e bisogna vedere entro quali limiti anche territoriali verrà imposta, è evidente che entra in una situazione di limbo, e bisogna anche vedere quanto tempo potrà durare questo limbo e le conseguenze della scadenza del termine. È un sistema complesso che in realtà è già disciplinato, non parliamo, certo, di cose nuove, sì, questo sì. È il punto. Noi abbiamo già con le riforme a suo tempo Cassese, Bassanini, Brunetta, tutti questi istituti in realtà sono già presenti. Come dico io, il problema è che forse prima di riformarli bisognerebbe far vedere che ogni tanto mettiamo davvero mano alle procedure di mobilità, ecco, anche per il pubblico. Uno dei temi è che questa rivoluzione di Renzi, che in realtà in molti punti è condivisibile, è una rivoluzione che forse non richiede tante norme nuove, ma richiede comportamenti e decisioni a partire dai vertici politici, che fino a oggi non hanno avuto molta interesse o non hanno dedicato molto impegno ad attuare, per esempio, il punto centrale, che è quello della valutazione, esatto, caso per caso dei dirigenti, che già oggi il dirigente che non persegue gli obiettivi, non raggiunge gli obiettivi, può essere destinato ad altro incarico e poi anche allontanato. Quindi il problema, io ritengo, come un po' tutti gli esperti dicono da molto tempo, è che non è che con le norme noi risolviamo, certo, abbiamo già gli istituti, abbiamo già da tanto tempo le norme sulla valutazione, la riforma Brunetta ad esempio prevedeva un sistema di premi individuali e dipendenti più... Che poi però nel confronto col sindacale saltò, perché resta l'idea che bisogna spalmarlo su tutti. Spalmano su tutti, e questo è, purtroppo, è la cultura dell'egualitarismo, purtroppo, nel pubblico. A cui però la politica ha sempre soggiaciuto, destra o sinistra. Adesso abbiamo i 60 secondi di informazioni sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.50, 27 secondi. Stiamo parlando della riforma annunciata della PA dal governo la tarda serata del 30 di aprile. Trovate sull'indirizzo palazzochigi.it solo una lista di 44 annunci di una riga ciascuno dei caposaldi di questa riforma. Stiamo aspettando i testi del disegno di legge. Sappiamo che, insomma, in gran parte ci sono, però senza testi è difficile giudicare, come ci ha appena spiegato il professor Marcello Claric, che con noi, che insegna diritto amministrativo alla LUISS. Prima sentiamo un po' di ascoltatori con i messaggi che sono arrivati. Devo dire la verità, lo scetticismo prevale, perché Fiorenzo, per esempio, secondo me ha ragione a dire che l'indirizzo rivoluzione che ho a governo.it è uno simbolo, perché rivoluzione e governo fanno un po' a pugni, per così dire. Sono molto d'accordo. Evaristo, nessuno è mai riuscito a riformare la pubblica amministrazione, non ci riuscirà nemmeno Renzi, tra cosa sono gli annunci in campagna elettorale. Questo è un po' il sospetto che abbiamo tutti oramai, bisogna aspettare che questa campagna elettorale finisca. Altri, c'è un pubblico dipendente, Emanuele, che dice: io sono convinto che servano davvero decine di modifiche profonde, e ho scritto più volte nel mio ambito proponendo che i dipendenti pubblici lavorino 40 ore a settimana e che gli uffici pubblici siano aperti pomeriggio e sabato mattina. Poi le cose sostanziali, esuberi, produttività, valutazione sul merito, ruolo invasivo della politica, sono tante, molto altre, ma attenti, perché la politica poi dice una cosa e ne fa un'altra, e anche queste, secondo me, di Emanuele sono parole sante. Sentiamo rapidissimamente anche alcune telefonate. Luciano da Firenze, prego. Luciano, come la pensi? Senta, io volevo dire questa cosa, che non è che io sono un grande economista, sono una persona della strada. Il problema della pubblica amministrazione è che è stata formata dai nostri politici e dai sindacati come un punto di potere per voti e potere sindacale, in cui i dipendenti venivano solo premiati o assunti se avevano la tessera e se poi votavano in una certa maniera. Questo Moloch, è inutile venga Renzi che è il quarto che dice la riforma è tutto, non c'è nulla, non si riforma, o si porta ai dipendenti pubblici come quelli privati, in cui se un'azienda chiude perché non ha più commesse, chiude da domani tutti in cassa integrazione, o se no non si fa nulla, si chiacchiera e si affonda l'Italia. Allora, Luciano pone il problema della totale unificazione del pubblico e del privato di fronte a un bilancio, quello pubblico, che ha tutte le caratteristiche di essere un bilancio di un'azienda in fortissima crisi. Secondo me, Luciano, al di là delle radicalizzazioni, pone un problema. Per esempio, il ministro Madia alla conferenza stampa ha confermato, al di là dei punti che voi trovate, io resto favorevole, ha detto il ministro, a più ampi prepensionamenti in deroga rispetto alla legge Fornero del settore pubblico. Io credo che se il governo si muove in quella strada bisognerà durissimamente protestare, perché come si spiega ai lavoratori privati che vedono protratta da un giorno all'altro con la riforma Fornero l'età pensionabile, e io sono pure d'accordo, ma ai tanti che poi sono disoccupati, e certo nessuno pensa al loro scivolo se i disoccupati privati, rispetto a poi se lo facciamo per il pubblico, per me è intollerabile. Claudio della provincia di Monza, Brianza, che pensa invece? Oh, Claudio? Carissimo, la sento sempre con piacere. Grazie. Allora, volevo dire questo, io ho fatto il dipendente pubblico al catasto di Milano negli anni 80, eh? Allora, al catasto di Milano avveniva questa cosa qui, lo studio professionale consegnava ai dipendenti, ad una serie di dipendenti di tutte le categorie, e credo lo facciano tuttora, consegnava i progetti da accatastare. Perché li consegnava ai dipendenti? Perché i dipendenti pubblici gli mettevano a posto tutto, glieli facevano loro, previo compenso. Ah, ecco. Previo compenso. Se non presentavi tu direttamente, andavi incontro, non venivi boicottato, ma certamente c'era qualche cosa che non funzionava. E allora tu dovevi ritornare più volte. Come sindacalista ti dico questa cosa, mi hanno fatto fuori dalla CISL sì, statali. Perché? In quanto io presentai un progetto dove il dipendente pubblico, salvo il fatto che prendesse chiaramente uno stipendio più basso, ma potesse essere libero di accatastare per le imprese gli studi professionali. Questo non è possibile, perché il geometra del catasto non può essere iscritto all'albo geometri, mi seguite? Allora Claudio, io ti devo interrompere perché ti ho dato parecchio tempo, insomma un'esperienza la tua che fa capire che è anche una questione di come funziona in concreto poi dal basso la pubblica amministrazione. Secondo me le responsabilità dei dirigenti in questo sono molto forti, eh? Io più che prendermela dal basso, sono convinto che c'è molta gente che ha impegno, che vorrebbe migliorare la qualità del servizio offerto eccetera, poi il problema dei dirigenti e i dirigenti che abbiamo visto non vengono valutati secondo il merito, dove pure le norme esistono per valutare secondo il merito. Professor Claric, quanto invece alla parte di accorpamenti, prefetture, centri di spesa, i 20 centri di ricerca pubblici che si dicono verranno accorpati e così via, non è la prima volta che lo si dice, poi di solito tutto muore per strada. Lei questa volta pensa sia la volta giusta, professore? Ecco, diciamo che è sempre una cosa molto difficile quello di accorpare apparati o enti. Negli anni passati si è provato tante volte, l'esperienza non è sempre stata, o anzi raramente ha portato risultati concreti. Quello su cui forse si può confidare leggendo questi punti è che con una manovra ad ampio raggio in cui si scontentano tante questa volta, in una sola ce la si possa fare a portare a casa il risultato. Speriamolo davvero, professor Claric, purtroppo il tempo è finito, continuate su Radio 24, appuntamento con me a lunedì.